avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Uno degli incubi più frequenti che l'umanità probabilmente può condividere è quello di essere divorati da altre persone. È di questi giorni la notizia molto discussa in rete. La gran parte delle persone esperte, io stesso tendo per questa versione leggende metropolitane, pensano che sia una bufala. Si parla del turista scomparso in Polinesia che si dice che sia vittima di un cannibale, un tedesco quarantenne che con la fidanzata girava il mondo, a un certo punto è scomparso. E in un'isola della Polinesia, Nuku Hiva, della Polinesia, l'ex Polinesia, della Polinesia francese, pare che non so, abbiano trovato un focherello che stava per spegnersi, dove c'erano alcuni resti umani, in particolare i denti con il metallo squagliato dentro delle otturazioni, vestiti bruciacchiati, quindi si pensa, qualcuno pensa che sia stato divorato. Al di là della notizia vera o falsa, mi presta il fianco per dare corpo ai peggiori nostri incubi. Quello di essere divorato è un incubo corrente, capita ogni tanto, quando si mangia troppo si sogna che qualcuno ci mangia. E il divoramento certo non avviene cominciando dagli organi vitali, come in tutte le rappresentazioni dell'orrore più acerrimo, cominciare appunto da hostel, nella celletta di questo albergo per maniaci sadici, il cannibale naturalmente lega la sua vittima al lettino, comincia a mangiargli i piedi pian piano, a mangiargli le mani, comincia a prendergli fettine della parte adiposa esterna, perché se lo mangia lentamente. Anche Hannibal, il cannibale, ha la sua vittima preferita, gli scoperchia la calotta cerebrale e, approfittando del fatto che la materia grigia cerebrale non può essere estirpata, lui era un noto medico, uno psichiatra, quindi ne sapeva di cose, ogni giorno gli prende e gli taglia una fettina di cervello, se la frigge mentre quello guarda, sempre più inebetito perché perde sempre dei pezzi di cervello. Vogliamo andare avanti? Quali sono i vostri incubi? Ma gli incubi peggiori, legati appunto all'effrazione, alla violazione del proprio corpo, sono quelli di cadere inermi nelle mani di un maniaco. E cosa potrebbe farci un maniaco? Beh, naturalmente il maniaco lavora di coltello, lavora di rasoio, lavora di motosega, lavora di trapano Black & Decker, lavora di ferro arroventato, a seconda in quale epoca storica sia collocato il vostro immaginario e la vostra atrocità preferita. Io parlo sempre di incubi, non di cose che uno si augura, di cose che lo tormentano. Qualcun altro potrebbe avere l'incubo, non so, di essere bollito in un pentolone di olio. Pensate, una cosa terribile, essere lessati nell'olio, anche perché lì è brutto, perché non è che subito arrivi lì, muori, non ci pensi più, no, annazza. L'olio pian piano, prima è freddo, poi diventa tiepidino, poi comincia, non avete mai messo, diciamo, a friggere le patatine, e lo vedete com'è che funziona, la patatina bianca la metti dentro, subito sfrigola. Pensate che lo fanno con la vostra di carne, diciamo, non è una cosa divertente. Poi sì, diciamo, l'area del depezzamento è un'area abbastanza praticata. Il depezzatore di solito usa strumenti che permettono una lunga, lenta operazione di evisceramento, di taglio delle ossa, di taglio delle braccia, che non è che usa mai, che ne so, un bisturi affilatissimo. Il bisturi viene usato per altre cose, viene usato per tagli, enucleazioni dei bulbi oculari, per taglio delle orecchie, per snariciamento, cioè io sto andando avanti. Beh, questa mattina vorrei sapere qual è la cosa che più vi fa orrore, qual è la cosa che più temete, qual è la cosa che più vi fa rabbrividire. Ci sarà un incubo, anche semplicemente qualcuno che vi schiaccia le dita dentro lo stipite di una porta, se lo fa volutamente, lentamente, pian piano, non è che dà gusto questa cosa qua. Rimanere chiusi nell'ascensore, beh, ben poca cosa, un po' di claustrofobia, manca il respiro, cosa volete che sia. Beh, pensate se lentamente questo ascensore comincia a rompersi la corda, vedete il cavo dell'ascensore che filo per filo, tac tac tac, si rompe, e sotto di voi c'è un'infinita tromba delle scale. Beh, anche questa non è male come cosa. Altra cosa, finire dentro un'automobile in un fiume, si salta la spalletta del fiume, si finisce nel fiume e dite, beh, poca cosa. Beh, cosa fate? Bisogna fare solo una cosa, aprire lentamente il finestrino, far entrare tutta l'acqua, tenere bene il respiro, quando l'abitacolo è pieno d'acqua, si apre lo sportello e si esce, no, lo sportello non si apre, sì, io lo faccio, arrivo lì, l'ultimo secondo, ciao, ci si dà la mano con la persona che si è dentro, si riempie d'acqua e non si apre lo sportello, e che fate in quel momento? Beh, cioè avete un minuto di tempo per morire lentamente, non è anche questo un bell'incubo, ma ne avete di più fantasiosi, di più belli, di più divertenti? Questa mattina vorrei analizzare le atrocità che galleggiano dentro ognuno di noi e ogni tanto riemergono come i nostri peggiori incubi. Io volevo tornare indietro, ma Soares sosteneva che erano innocui. Improvviso una notte ci sono piombati addosso, ci hanno sopraffatti e trascinati fino al loro sporco villaggio. È stata una disa terribile. Ma come fai a dire che si trattava di cannibali? Forse erano soltanto dei primitivi. E allora sta a sentire che cosa ci hanno fatto i tuoi primitivi. Giunti in quel loro maledetto villaggio, ci hanno chiusi dentro una gabbia di bambù immersa in uno stagno putrido e infestato di sanguisughe immonde, assetate di sangue. In pochi minuti ne avevamo decine addosso, a succhiarci il sangue e le poche forze. Al portoghese andò molto peggio. Lo legarono a un palo infisso al centro del villaggio e poi lo evirarono con un colpo di macete. Subito dopo mangiarono i suoi genitali e lui... Basta, basta, Mike! Ti prego, smettila! D'accordo. L'importante... E già farsi rimangiare da vivo assume molti problemi, pensate, in questa situazione. Beh, oggi abbiamo cominciato a darvi dei professionisti della materia dell'incubo. Voi avete sentito lo stralcio di un racconto di incubo probabile e possibile, ma forse non tutti di voi sanno che questo ha rappresentato un genere letterario di racconto attraverso il cinema che ha fatto distinguere il genio italico in tutto il mondo. Il genere cannibalico è stato inventato dagli italiani. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Di cosa stiamo parlando? Questo è l'incubo dalla società occidentale che all'inizio degli anni Ottanta si materializza nei film di Umberto Lenzi come Cannibal Ferox, che riprende poi Deodato, il Cannibal Holocaust, in cui lo steward Barbareschi ammazzava a fucilate un maiale, ti ricordi? Ci fu una famosa protesta animalistica che spara un vero maialino. Sì, poi li fecero sparire gli attori per un anno, fu una sorta di anticipazione di Blair Witch Project. Salva un maiale dallo scannino, che sarebbe il coltello affilato per sgozzarlo, con una fucilata lo ammazza, gli evita una grossa sofferenza. In quel caso, essendo anni foschi e truci in cui ancora le leggi umanitarie nei confronti dei maiali non avevano imposto la pistola a sparacchiodi, mi sembra che fosse un gesto tutto sommato di pietà. Sì, sì, poi viene anche sgusciata una tartaruga, però qui... Sì, quello è brutto, è stato brutto. Qui sostanzialmente c'è la solita dialettica fra Ottentotti e Parigini, fra, cioè, la società occidentale che irrompe nel mondo degli indigeni incontaminato e puro e porta il suo darwinismo sociale, la sua ferocia dei rapporti, del denaro, dell'avidità, e viene punita e sbranata e divorata. C'è la catarsi spettacolare all'interno di la leggenda nera, sono varie storie, capito, che comunque le peggiori effrazioni vengono giustificate dal fatto che erano selvaggi, che si mangiavano le persone, le impalavano, le tagliavano a pezzi. Sul ponte della Drina c'è una rappresentazione di un'impalatura sul ponte che dura pagine, pagine, pagine, lentissima. Il palo entra, poi si comincia a vedere un rigonfiamento sulla spalla, pian piano esce la punta del palo, poi lo lasciano lì, dopo una settimana era ancora vivo. Era una cosa terrificante. Luca, buongiorno. Buongiorno. Cominciamo con gli incubi. Sì, io come l'ascoltatore precedente sono un cultore dei... loro li chiamano B-movie, ma per me sono veramente opere d'arte dei film di Deodato. L'horror italiano degli anni 70 e 80, che ha fatto scuola. Esatto, e infatti spesso mi capita di avere degli incubi concernenti questi film. Ad esempio, un incubo classico è, come in Cannibal Ferox, di essere attaccato con degli uncini come Zeora Girova, oppure mi ritrovo su un mazzetello, che è uno strumento di tortura, come una sedia. E ce lo descriva il mazzetello, che non lo conosco. È uno strumento di tortura dei tempi della caccia alle streghe. Ah sì, la mazzolatura è la tipica pena applicata allo Stato Pontificio. Hanno mazzolato persone fino, mi sembra, ai primi dell'Ottocento, cose del genere, sì. Quindi mi capita spesso di avere questi incubi. Era lo spezzettamento graduale di tutte le ossa, ciò che la persona diventasse disarticolata, qualcosa del genere. Esatto, e poi tra l'altro anche quello che diceva lei, che so, dell'olio bollente, penso che sia una cosa comune a tutti, di trovarsi fritto come una patatina. Sì. niente, questo era quello. Va bene. C'è una voluttà nel racconto. Senti, Giuseppe Sansone. C'è, sì, c'è una voluttà, c'è un piacere del racconto nell'ascoltatore. Insomma, ma tu associ la passione per questi film, che li guardiamo come genere di culto, io li guardo per farsi due risate, perché è talmente amplificata e massimalizzata l'orrore, che non è il vero orrore. I veri film dell'orrore poi capirono che erano quelli in cui non si vedeva veramente nulla, lì si vede tutto. Sì, qui all'inizio degli anni 80, in questo tipo di cinema, che come tu citavi prima, Hostel, è stato ripreso, infatti Deodato appare anche in Hostel fra i torturatori, c'era una forma di spettacolarità di Blair Witch Project è un po' la stessa storia di Cannibal Holocaust di Deodato, ovvero lì si finse che questi quattro esploratori andassero appunto in questa zona incontaminata e fossero catturati e sparissero nel nulla. Infatti Deodato fece sparire gli attori per un anno, poi arrivava il processo penale e lui dovette mostrare che erano ancora vivi. Barbareschi era ancora vivo, insomma, questo demerito. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Il peggior incubo? Il peggior incubo è quello di cadere nel vuoto, ma non tanto la caduta in sé, quindi la paura della morte che può avvenire in seguito alla caduta, quanto dopo un iniziale piacere che uno può nel cascare, quindi nel essere attratto dalla terra, la paura del dolore che uno può provare andando a sbattere contro i rami. Comunque la rassicuro, avendo fatto in gioventù il paracadutista sportivo, l'assicuro, il vuoto non è mai vuoto, l'aria fa un attrito, lei provi a mettere una mano fuori del finestrino dell'automobile andando anche semplicemente a 80 km l'ora, sentirà la resistenza dell'aria. Se lei va in caduta libera dopo circa 4-5 minuti si stabilizza sui 130-140 km orari a seconda del suo assetto, e poi l'aria l'accoglie, non si ha l'impressione di cadere, si sente appoggiati a qualcosa di fluido. Quindi non c'è questo senso tipico dell'incubo che manca il respiro, ci si è appoggiati, certo la terra si avvicina e se non apre il paracadute si spiaccica miseramente e è terribile, perché gli ultimi istanti, gli ultimi secondi prima dell'impatto vede la terra arrivare velocissima e poi non sempre si muore subito, quindi è dolorosa come fine, è giusto il suo incubo. Andiamo avanti però con la nostra rassegna 800 24 00 24, raccontate senza timore il vostro peggior incubo, raccontarlo significherà farlo evaporare, sciogliere come neve al sole. No! No! Ryobi, sono io che ti rinnego. E sono io a maledirti nel nome del demonio. Su, avanti, fammi pure inchiodare alla bara. Non sfuggirai ai miei artigli né a quelli di Satana. Gli elementi scatenati delle tenebre sono in agguato, pronti a colpire. Attento, Ryobi! Attenta, la mia vendetta ricadrà su di te e sulla tua stirpe. Sì, perché sarà nel sangue dei tuoi figli e dei figli dei tuoi figli che io vivrò la mia vita immortale. E saranno essi a ridarmi la vita che tu ora vuoi togliermi. Io tornerò a tormentare, a distruggere nelle morte dei tempi. Qui abbiamo, prima che Giuseppe Sansone entri nello specifico del film, ha intuito una serie concatenata di vari incubi e sottoincubi. L'uno è quello di rimanere chiusi della bara, che è un grosso incubo, c'è sempre un prete che per spaventarvi racconta che tutte le volte che si fanno le risumazioni sarà sempre quello che si mangia le mani, quindi tutti dicono ah sì, allora voglio essere cremato, infilatemi un chiodo d'argento nel cuore, chissà perché d'argento, poi tagliatemi la testa, fatemi in modo che non mi risvegli nella bara. Tarantino in Kill Bill mostra esattamente che anche rimanere dentro la bara ci si può salvare, perché la protagonista riesce a scalfire con il colpo del maestro di karate pian piano il coperchio della bara, si risale lungo metri di terra, si salva e ammazza tutti i suoi nemici. Poi c'è l'aspetto del morto che ritorna, il ritorno dei morti, quella è una cosa terribile, un altro incubo, e poi il demonio, i demoni e tutto ciò che è il mondo sottile demoniaco. Giuseppe Sansone, invece noi di cosa parlavamo? Qui parlavamo della maschera del demonio, che nel 1960 squaderna l'immaginario horror mondiale. Qui c'è la mercuriale Barbara Steele con i suoi occhi dei chirichiani, fa la strega e viene inchiodata dall'inquisizione su questo palo e gli viene infisso questa maschera. Prima viene c'è il dettaglio, viene impressa la lettera scarlatta sulla carne sfrigolante, c'è l'uso del dettaglio molto forte, molto incisivo, con questi, ah già, il ferro arroventato e quello anche un altro inco, questi bianchi e neri inchiostrati molto, molto densi, e gli viene calato sul volto, bellissimo, bellissimo, sensualissimo, gli viene calata questa maschera e poi il boia gliela inchioda con una martellata. Poi nel corso del film il suo volto meraviglioso ma ulcerato creerà questo misto di sensualità e orrore che è tipico di Bava. Questa sensualità contorta verrà introdotta nell'immaginario mondiale proprio in quel periodo lì, è lì che nasce e poi verrà esportato in America. Lui era un genio anche del bricolage, di un immaginario ricostruito antinaturalisticamente in studi di posa, con vetrini, con dipinti, faceva tutto lui, faceva frusciare un po' di foglie davanti all'obiettivo e ricreava una foresta, un genio assoluto senza l'elettronica. Era tutto basato sul dettaglio comunque, mentre poi si andò per sottrazione, si ritornò a una scuola in cui l'orrore era quello dei mostri interiori che venivano evocati. Gli ultimi film del genere, Blair Witch Project, dicevi te, sono quelli delle case possedute, in cui non si vede mai niente. Sono case in cui ci sono fenomeni paranormali, c'è come una webcam che riprende una famiglia in cui si sbattono mobili, è sempre un crescendo, poi alla fine si scopre c'è sempre qualche morto inquieto. 80024 0024. Beh, siete un po' scarsini a incubi, tutto qua, poi vi lamentate, poi andate a piazza, poi distruggete tutto. Quali sono i veri fantasmi profondi che agitano i vostri sonni tranquilli? Cosa sognate? La motosega, l'accetta, i chiodi, la pistola spara chiodi, ce ne sono tanti di sistemi. Anche camminare sui cocci di vetro, sui carboni ardenti, l'hanno fatto anche illustri personaggi come Lucas Casella, ma in realtà facendolo senza il dovuto training forse fa un po' male. Mario, buongiorno. Buongiorno. Qual è il suo incubo? Dunque, c'è stato un incidente aereo, ma mi sono salvato. Un incidente aereo? Sì, sono in mare, in mezzo al mare. Ammaraggio forzato e lei si è salvato? Sì, e però sto tranquillo, sereno, perché mi piace il mare, sto tranquillo. Ah, questo sta raccontando l'incubo, è successo? Sì. No, racconta l'incubo, sì. Dico, vabbè, morirò, pazienza. Però una volta ammarrato, perché si mette il giubbotto salvagente, aspetta, vengono i soccorsi. Sì, lo so, però non si sa, comunque se dovesse andare male, pazienza. A meno che non sia al largo di Ustica... Ma, di solito arriva uno squalo. Ah. E cerco di difendermi e poi un altro. Ma la sensazione è terribile. Ma lei galleggia nell'acqua a quel punto? Sì. È circondato da squali. E la sensazione terribile è che arriva uno, mi dà un morso un altro, la lenta sofferenza. Certo, mica c'è che fretta hanno. Colpo solo, un umore paziente. Eh no, gli squali mangiano lentamente. Ci sono due cose poi. L'hai mai vista poi la dentatura di uno squalo come è fatta? Sono tre ordini di denti affilati come rasoi. Guardi, a me mi è capitato, capita. Ci mette un dito e fa paura. Sta a mare, ma normalmente metti in piedi con l'acqua alle ginocchia, arrivano dei pescetti piccolini che ti danno dei morsetti. Ma lei non lo sa che adesso nelle spa la moda più estrema è andare a farsi fare una specie di trattamento che si entra in una vasca e entrano tutti i pesciolini che ti mangiano la pelle e le signore vanno pazze per questo. La pelle morta? Sì, sì, di tonni belli. C'è adesso le spa più avanzate. Piranha. Non sono piragna, sembrano magari latterini. Lo posso. No, uno entra dentro, vengono sti pescini, ti ciucciano tutte le scaglie, i brufoli, i calli, che ne escono con questi piedini le signore, che il trattamento del pesce le fa diventare bellissime. È quello di essere attaccato da tutte le parti. Difendi da un piede. Da dove cominciano gli squali? Dalle dita dei piedi, naturalmente. Sì, ricordo, sì. Qui lei si trova praticamente con due orrendi moncherini al posto delle gambe, è ancora vivo. Non lo so, perché poi l'angoscia era tale che mi sono svegliato. Però vedi, l'angoscia è la consapevolezza lenta del morire. Se il sogno finisce subito, capito? Va bene, 800240024. Il tempo è volato questa mattina sul filo dei vostri incubi. Raffinate la casistica per questa ultima di squali, mi è piaciuta, ma si può fare ancora di più. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Con un grido mi precipitai alla tavola, afferrai la scatola che vi giaceva, ma non riuscii ad aprirla. Nel tremito mi scivolò di mano e cadde pesantemente andando in pezzi, e fuori ne ruzzolarono con gran fracasso alcuni strumenti dentistici mescolati a 32 minuscoli oggetti bianchi come d'avorio che si sparpagliarono qua e là sul pavimento. Erano i 32 magnifici denti di mia cugina Berenice, che mi avevano ossessionato durante la sua malattia e che a 6 mesi dalla sua morte avevo ritrovato quella terribile notte in cui non ricordavo cosa avevo fatto, cosa era accaduto. Beh, a anche quello del dentista è un bell'incubo. Vari film insistono sulle torture odontoiatriche. Io alle 12.30 ho appuntamento con la mia igienista dentale, vero, non dico una stupidaggine, e adesso mi è venuto in mente che in realtà anche questo può essere un buono spunto. In questo caso lo spunto è un racconto di Edgar Allan Poe, se non sbaglio, Giuseppe Sansonna, che è diventato un film. Sì, questo era Berenice, e in realtà il film è Danza Macabra del 64 di Margheriti, in cui c'è Edgar Allan Poe in persona che rievoca il suo racconto, arriva questo cronista e lo ascolta. Però vale la pena di raccontare come nasce questo film. Cioè, Sergio Corbucci aveva appena finito Il Monaco di Monza con Totò e gli era rimasto sul groppone alla De Paulis, questo enorme castello gotico. Da questo gli viene l'idea, erano ancora poco diffusi, di fare questo film horror, e si inventa in 4x4, glielo propone al produttore, dice che c'è questa grande storia scritta da degli inglesi, e la scrivono in 4x4 e la affidano poi allo stesso Margheriti. Quindi è dallo spazio, da un luogo particolare, evocativo, gotico, romantico, che nasce appunto l'idea per questo nuovo cinema. E qui c'è l'incubo che si materializza, è sempre Barbara Steele, che era presenza fissa di questo tipo di cinema, che fonde Eros e Thanatos, e l'incubo è incontrare una donna bellissima, passare una notte con lei e poi morirne. Questo è un po' la è quello che tutti vorremmo comunque. Sì. Vi leggo qualche incubo soltanto dagli sms, di solito qui non do molto peso perché sono quelli più esasperati, esagitati, infame, zozzo, maiale. Cioè mi becco un'onda lunga di insulti che aspettavano a Giannino, e poi quello che viene dopo di me, la povera Nicoletta Carbone, si beccava un'onda lunga di insulti dedicati a me, poi lei non la insulta nessuno. È un incubo. È un incubo. Allora, finire con i figli in campo di concentramento, è vero, questo essere questo è brutto, però queste sono cose che veramente appartengono a realtà che hanno poco di onirico molte volte. L'incubo peggiore è la sepoltura fino alle spalle, con una morte lentissima, lancinanti, di dolori e sole cocente, insette voraci a banchetto. Beh, questo anche l'insabbiamento vietnamita, in tanti film del Vietnam vengono lasciati soli con la testa fuori, arrivano il poi cacciatore, no? il cacciatore. Poi gli uccelli, la scena del topo sulla fronte di De Niro. Ma c'è, aspetta, tu pensi. La cosa mi fa più orrore sentire parlare in quel modo, orrore con tanto compiacimento. Lei deve odiare molta umanità per essere sempre così violento verbalmente, non potendolo essere fisicamente. Ma figuriamoci, sono la più pacifica delle persone. Mi piace giocare e scherzare, non odio nessuno. Ho annullato la parola odio dal mio vocabolario, ho scoperto che odiare è una fatica terrificante. Mamma mia, è peggio che amare, odiare, è una fatica, ti porta via tanta energia, non odio nessuno. Sansonna, conosci Lieben Champ? E non so cosa sia, boh. È un film. L'incubo terribile è dover guardare qualcuno e fa del male ai tuoi figli. Vabbè, parliamo di cose che sono divertenti, non parliamo di cose che veramente tocchino. Stiamo parlando di esagerazioni, esasperazioni, lo dico con lo stesso senso in cui hanno fatti questi filmacci anni 80. Era una cosa splatter divertente. Ecco, un momento, questo qua è divertente. Mi scrive un sms: una cannula di vetro infilata nel pene e poi spezzata. Ma come fai in mente una cosa del genere? Alessandra, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qual è il suo incubo peggiore? Essere bruciata sul rogo come strega. Perché cosa ha fatto di male? Sono profondamente anticlericale. Per essere bruciati non basta questo. Lo so, bisogna non so, aver giaciuto con il demonio come minimo, sotto forma di caprone, irsuto e scaglioso. Ma lei come fa a sapere? No, glielo domando, lei può dire no. No, io non dico niente. Cioè, ha giaciuto con il demonio? Sì, ma cosa vuole? Non posso dirlo così tranquillamente. Se il suo incubo è essere bruciata come strega, lei ha avuto innominabili rapporti per vas nefandum con il demonio. Marco, buongiorno. Pronto, buongiorno. Volevo raccontare un sogno che veramente mi è accaduto, un incubo terribile. Cioè, ma le è accaduto davvero o l'ha sognato davvero? No, l'ho sognato. Dico. Allora, niente, dormivo e ovviamente sognavo di avere sopra di me un cadavere. A che livello di decomposizione? Beh, questo non è chiaro, però quello è importantissimo. È appena morto e niente. Era freddo e fermo. Ha già nel rigor mortis, quindi erano passate delle ore. Rigor mortis, sì. Quindi erano poche ore, diciamo, perché dopo si riammoscia e comincia a squagliarsi. Miseramente, sì, sì. E la cosa bella è che chiaramente questa cosa mi dava un certo così turbamento, quindi ho deciso di svegliarmi, e a quel punto mi sono reso conto che in realtà mi era addormentato sul braccio, che quindi si era addormentato, e quello era il braccio del morto. Prendo il braccio, lo allontano con tutta la mia forza e ovviamente quello è ritornato. Cioè, che anche lo sa che c'è chi si procura artificialmente il braccio del morto mettendo la mano in un cassetto, facendo quel tipico meccanismo di fermare il sangue in cui diventa una mano insensibile? Esatto, invece mi ero semplicemente... È una tecnica per innominabile uso, sì. Dai, quello lo immaginavo, non era quella che stavo dormendo, quindi no. E quindi niente, prendo questo braccio, lo allontano, il braccio praticamente ritorna e lì è veramente scoppiato il terrore, ma la cosa divertente è che praticamente questo è l'incubo che diventa realtà, quindi... Sì, perché da ragazzi succede ogni tanto, uno dorme male e si sveglia col braccio informicolito che sembra un braccio di legno. Ehi, non piangere. Lasciami in pace, mi fai paura. Non ti voglio far del male. No, no, vattene via. La pazza era tua madre. Io ti voglio aiutare. Giuseppe Sansonna, spiega che sta succedendo, qua sentiamo solo urla. E questo è Fenomeno dell'85 di Dario Argento, qui c'è Jennifer Connelly, appena uscita dai sogni di Noodles De Niro, diceva una volta in America, che si trova ad avere questa empatia telepatica, appunto con gli insetti, grazie a Dario Argento, e qui trova questo bambino in questa casa in cui sono tutti gli specchi coperti, dice ma come mai tua madre tiene tutti coperti gli specchi, e lo scoprirà a sue spese quando si gira il bambino, è orrendamente Hieronymus mutilato, Bosch, sì. un incubo di Bosch deformato, in persona, e quindi e questo è uno dei se qualcuno volesse vederlo a Roma, quartiere Prati, una traversa di via Colla di Rienzo, esiste Profondo Rosso, che è il negozio di Cozzi. Dove sotto c'è un sotterraneo con tutti i trucchi originali dei film d'Argento, sì, e c'è l'orrendo bambino sfregiato sulla barchetta, da vederlo è un incubo. Lisa, buongiorno. Lisa, sì, buongiorno. Qual è il suo incubo? Il mio incubo è legato a una paura che ho dall'infanzia, è legato agli insetti. Io ho un terrore paralizzante degli insetti. Il mio incubo peggiore, che è un incubo che faccio praticamente da sempre quando sto male o quando posso aver mangiato troppo, è quello di trovarmi chiusa in una stanza che piano piano si ricopre di insetti. E cose, ma scarafaggi, diciamo? Sì, no, guardi, io ho paura di tutti gli insetti. Ma quali sono in particolare? Lei si immagini a piedi nudi in una stanza ricoperta di scarafaggi, cammina, esatto. Sente ciac ciac, li schiaccia. No, ma io, cioè, se mi dovesse succedere realmente, cosa che mi auguro non accada mai, probabilmente morire di infarto sul colpo, perché cioè nella ma quelle nella vita zampettine reale, carine tutte pelosette che le camminano sulla faccia, no, probabilmente passerebbe qualche minuto di intenso orrore, paura più che orrore, dopodiché sverrei o morirei. E pensi svegliarsi, vedere che dal soffitto in un lungo filo un bel ragno grosso e peloso le sta a un centimetro dalla bocca, cosa farebbe? Probabilmente rimarrei paralizzata, nel senso che se la paura sarebbe tale che rimarrei immobile, tant'è vero che quando faccio questo tipo di sogni che hanno a che fare con gli insetti e mi sveglio, io ho la sensazione, mi resta per qualche minuto la sensazione di sentirmeli camminare addosso, quindi mi devo alzare, devo fare il letto, vedere che non c'è niente, addirittura spostate i mobili a volte, perché sentivo magari un clicchiolio, avevo paura ci fosse un insetto, qualcosa nella stanza, quindi cioè... Però il mondo è pieno di insetti, le capiterà nella vita di averci, che ne so, un millepiedi che le cammina sulla mano quando è addormentata in un prato? Capita? No, io guardi, l'ultima volta che sono andata in un prato risale a qualcosa come 15 anni fa, ero con col fidanzatino che avevo all'epoca, noi ci siamo seduti tranquilli su un prato, a un certo punto è emerso. Ha visto un insetto? Un insetto, io sono Ha lasciato il fidanzatino per quella scarsissima... No, io sono svenuta, lui si è spaventato tantissimo, e cioè ha dovuto chiamare dei soccorsi perché ero svenuta. Ma che tipo minuto. Di insetto era? Quale genere apparteneva? Io penso una specie di scarafaggio. Che colore aveva? Guardi, da ricordi che ho io, abbastanza confusi, era marrone, nero, un marrone scuro, ecco. No, sono quelle quando li schiaccia esce quel bel liquido verdolino, non so se ce l'ha presente. Fa crack e continua a muoversi ancora. Sì, no, diciamo che quando... Ma lo sa che il mondo è pieno di acari, lei nel suo cuscino, non so se è venuto mai uno a cercare di venderle un aspirapolvere, quando vogliono vendere un aspirapolvere, sì, hanno questo trucco bellissimo, vanno in camera da letto, sgusciano il materasso, ci mettono uno straccio sopra, ti fa vedere uno straccio poi pieno di pezzetti di pelle, quindi sono gli acari... Questa è la sua pelle, questo è l'orrore del quotidiano. Questa è la sua pelle, mi fanno vedere una manciata di gobba bianca, sembra... E poi gli danno fuoco, a me gli hanno dato fuoco. Sì, danno fuoco, senti l'odore di pelle bruciata. Quelli sono gli acari, lei sa che ogni notte è mangiata da acari anche se non li vede. certo, infatti cioè, quando ho avuto la consapevolezza di questa cosa ho cercato di rimuovere il più possibile questa, questa consapevolezza per non pensare. Eh no, proprio. Sono ovunque, guardi, sono ovunque gli insetti. Quelli, deve stare tranquilla perché li vedrà e ne vedrà tantissimo nella sua vita. Quando si è connu, quando si è reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quando si è retrouvé, quando si è réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Sono ancora le statue originali? La maggior parte sì, altre ho dovuto farne di nuove. Ne avrete visto un esemplare nel mio studio. Veramente impressionante. E le rifinite voi stesso? Devo fare tutto da me. Mi fanno paura. L'avvelenatrice di Poitiers. Stiamo dando possibilità agli ascoltatori di raccontare, esternare, quindi liberarsi parzialmente dei loro peggiori incubi. Ci sono una serie di telefonate indignate, trasmissione troppo cruenta, non potete dire queste cose, cioè stiamo scherzando, con una signora che dice che stava in un prato col fidanzato, ha visto uno scarafaggio, un altro che sogna gli squali che gli mangiano lentamente i piedi, un altro che sogna di cadere nel vuoto. Ma se non possiamo nemmeno ironizzare, scherzare su queste banalissime paure, ho tentato, anzi ho fatto azione violenta e vessatoria perché fossero allontanati gli incubi che attengono agli affetti familiari, all'emotività. Parliamo degli incubi, quelli tosti, quelli ridicoli, quelli su cui ci si scherza sopra. Giuseppe Sansonna, di cosa parlavamo? Questo invece? È il mulino delle donne di pietra del 1960. Ecco, si può dire coento, il mulino delle donne di pietra, un matto che pietrificava le donne e ci faceva un carillon, ma dai. Sì, sì, è una grande metafora dell'arte, se vuoi, ha bisogno appunto della vita, di cibarsi della vita per creare attraverso questo mulino in Olanda una sorta di ricostruzione di grandi figure. Erano i contrappesi per far muovere l'orologio, cos'erano queste donne? No, era proprio un artista, lui era la metafora, la metafora dell'artista, ricrea Giovanna d'Arco, appunto la venenatrice di Poitiers, Cleopatra. Al Museo delle Cere erano donne pietrificate invece. Lui le usava, rapiva queste fanciulle per nutrire sua figlia e poi le pietrificava per ottenere questa verisimiglianza, questo realismo estremo, insomma una sorta di indicazione di poetica, se vuoi, innocente, ma anche qui la trama è sempre un pretesto per creare delle evocazioni, degli interni pieni di luci, pieni di colori, pieni di grande intensità emotiva. Non so se può aiutarmi, chiede un ascoltatore via SMS che tipo di sofferenza comporta morire finendo nell'azoto liquido. Non lo so, ma non saprei neanche io. Ci si liquefà in una facendo dentro una sorta di fumo terribile, penso. Antonio, buongiorno. Buongiorno, qual è il suo incubo? Io sono gemello e siccome amo tanto leggere, leggevo da piccolo, leggevo Domastica, e di finire su una cella con una maschera di ferro e il mio gemello mi prende al mio posto e ogni tanto faccio questo sogno. Ma lei ha un regno che deve contendersi con suo gemello? No, una vita normale. Una vita... Ah, quindi lei sogna di essere il gemello buono, incatenato gemello con la maschera di ferro, sì, e l'altro gemello al posto suo? Io ho un gemello, sono un gemello. Sì, sì, ho capito. E suo fratello fa lo stesso sogno? Vi siete mai confrontati? No, c'è conflittualità tra gemelli. Sì, ma suo fratello sogna pure lui di essere una volta imprigionato. No, quindi solo lei lo sogna. Sì. L'altro sta tranquillo. Guardi Inseparabili di Cronenberg con Jeremy Irons. Le consigliamo Inseparabili, Cronenberg. La terapia rassicurante. Due fratelli ginecologi, molto, che hanno inventato strumenti fantastici per squartare le donne. Sì, diciamo, è una mano santa per rasserenarsi. Le consigliamo questo film, veramente, per un rapporto sano fra gemelli è bello. Poi finisce che uno usa quegli strumenti sul fratello. Quindi, sì, certo, naturalmente. Valeria, buongiorno. Gianluca. Sì. Male, qual è il suo incubo? Io sogno di camminare in collina e tutto a un tratto l'erba si trasforma in un prato di serpenti. Uh-huh. Però sono bianche, serpi bianche. Beh, ci sono. C'è il boa albino che è bianco, giallino, ce ne sono tanti di serpi bianchi, sono le più cattive. Ma in realtà io penso che sia a causa di una cosa che si raccontava nelle campagne del Bresciano, uh-huh, che era quella che c'erano delle serpi che di notte andavano a succhiare il latte delle donne, diciamo, che allattavano i figli e che venivano trovate poi nei pentoloni di rame che erano appesi alle pareti, uh-huh, queste serpi di questo colore, e la motivazione del colore era data appunto dal che bevevano il latte. Sì. Però io non so. Si diceva anche in Umbria che di notte la serpe va a succhiare il latte alle donne, non so, Giuseppe Sansone. Però questa è un'attrice interessante di questo cinema, ecco, in Italia, che ha avuto una forza in Italia enorme, che è stata esportata in America, ha affascinato l'America. Cioè, queste storie nascevano intorno al fuoco, anche nel mondo contadino, queste leggende che venivano ricamate dalle signore, dalle donne, e tramandate in questi momenti di riunione, avevano questa forza, questa cupezza antica, crudele, che poi viene appunto da Mario Bava, da Ferroni, da Margheriti, è ereditata e trasformata in immaginario visivo. Scrive un ascoltatore via SMS: il mio incubo peggiore sarebbe una cena con lei, che sarei io, e quel venditore di fuffa di Sanson. Giustificate la vostra esistenza solo con le chiacchiere inutili. Non so, sono utilissime queste chiacchiere. Non trovo nulla di più utile questa mattina che parlare degli incubi altrui. Divento una sorta di terapeuta dell'altrui incubo. Terapeuta in senso del tutto cialtronesco, naturalmente. Molte volte mostrare la... Io ho fatto una trasmissione interessantissima, ma serissima su internet. Devo bilanciare oggi. Valeria ha già parlato? Parletta, Valeria, quella della distesa dei serpenti. Andiamo avanti. Ti faccio paura? Eppure una volta ti piaceva. Sì, una volta. Ti è sempre piaciuta la violenza. Ma qua dov'è l'incubo? Da gusto da morire all'essere frustrata. Che film è? Sì, questo è La frusta del corpo di Mario Bava. Qui c'è... Entriamo nel sadomaso qua, non è un incubo. Christopher Lee in versione amletica, con questa frangetta crudelissimo che percuote la splendida Dalia Levi, che è una mora, insomma, su questa spiaggia. Insomma, qui c'è Mario Bava, appunto, che ricrea queste immagini cristallizzate, queste immagini che poi ispireranno anche il cinema da Eisenstein da camera di Carmelo Bene. La trama, appunto, è un puro pretesto, e si vive in un cristallo atemporale, astorico, in cui si creano queste situazioni, e soprattutto si tramanda in un cinema popolare delle perversioni da craft tabbing, appunto il sadomaso viene contrabbandato, che oggi è diventata una cosa molto pop anche quella. In 10 secondi, Bruno, qual è il suo incubo? Ci arriviamo in 10 secondi. Il mio incubo è la questione che ho abitato per diverso tempo, meno male per poco tempo, in un appartamento, in una casa piena di topi. Perfetto. Allora, purtroppo... È l'incubo del topo. E l'incubo, io sogno ogni tanto che ci sono topi in casa. Ma non è che fanno male, il problema è se uno sogna e russa con la bocca aperta, la codina del topo infilata in gola può riuscire in qualche maniera a creare dei problemi. Ringraziamo Fabrizio Intonti e il professor Chiappini, mi ha scritto qualcosa ma non riesco a leggere, è scritto più grosso perché io sono ciecato, il mio incubo è non riuscire a leggere, e più vado avanti più questo incubo cresce. C'è la tortura con il topo in faccia, ha scritto Fabrizio Intonti. C'è una tortura con il topo in faccia. Benissimo, questo è l'incubo di Fabrizio Intonti. Grazie Sansonna, domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.